scuse a Eugenio. Ti ricordi eventualmente cos'è, 6 mesi fino a aspettare o 3 mesi? Ma io mi ricordo che il presidente Larry Portotorrege aveva fatto dei corsi l'anno scorso, mi pare, non so, quest'anno, forse non l'anno scorso, i corsi erano la durata 3 mesi prima dell'esame, proprio come il film che avevano fatto, capito? In 3 mesi c'è una preparazione tecnica insomma elaborata in una maniera tale da far capire bene al candidato ciò che è l'ambito dell'esame, e dopodiché il presidente, che chiaramente è quello che insegna con i suoi preposti, fanno l'elenco di chi è preparato e di chi non è preparato, cioè, perché presentare dei candidati ad un esame, una sezione, poi fa anche figure di cazzo, quindi è chiaro che devi avere i candidati preparati e portarli all'esame. Quindi dal momento in cui il presidente e i preposti stessi decidono che Tizio, Caio e Sempronio sono pronti per dare l'esame, li mandano a dare l'esame, capito? Diversamente ti dicono no, tu per quest'anno esame ancora non li puoi dare, perché hai delle cose ancora da vedere. Dal momento in cui non sei preparato, noi non ti presentiamo, quindi ti presenti il prossimo anno. Ah, ok, ottimo, sì, no, mi piace questa cosa, che almeno insomma c'è chi ti osserva, c'è chi ti supervisione, capito? E quindi no, buono, adesso controllo al portatore, voglio vedere, perché tanto ascoltami, non sto facendo niente, quindi da fare le cose che permettere di andare a fare lezione tranquillamente. Boh, ci penso, dai, adesso vedo un attimino come sono organizzati. Se sono organizzati che il prossimo anno magari c'è qualche corso che comincia, mi iscrivo e non c'è problema, guarda. I libri adesso chissà, mio figlio che si è fatto fare quei libri lì, perché erano proprio a casa a Bologna, capita, e ce li avevo tutti e due, perché sono due, uno mi sembra di colore verde e l'altro è un po' più grande, uno parlava di tecniche e l'altro di altre cose, ma sì, dovrei averli, poi eventualmente c'è Giovanni che li comporta, non dovrebbe essere una grande cifra. E poi eventualmente mi sorriso, ma buono, dai, vi saluto, scusate ancora. Grazie Claudio per le informazioni, a te Eugenio, ma veramente stavolta mi ascolto soltanto e non li prendo più, perché c'è troppo da mangiare. Ciao, buona serata, vai Eugenio. Ciao Mario, ciao. Deve essere un altro bel mondo la storia dei radioamatori, però vabbè, io non sono interessato alla patente, non li ho neanche mai sentiti parlare, sinceramente, vabbè, non lo so, riprendi qua. Sì, tutto il mondo è paese, Eugenio, tutto il mondo è paese. Nessuno è nato imparato, tutti abbiamo da imparare, tutti ci devono insegnare le cose, non è che si nasce, capito? Piano piano, io qualcosa l'avevo già imparata, qualcosa me l'avevano insegnata, perché ha giocato 20 anni di birata, quindi avevo tutte le frequenze sotto controllo, come tutti naturalmente i vecchi radioamatori. Perciò però ti posso garantire che nessuno è nato imparato, abbiamo sempre tutti qualcosa da imparare. Io quel poco che mi hanno insegnato me lo sono goduto, la radio l'ho fatta, poi basta, mi sono ritirato. Io avevo preso inizialmente, come sanno tutti, la licenza, la patente per la detenzione delle radio, perché la mia paura era sempre quella che venissero a sequestrarmi tutto. Io ho avuto nel 1990 dei controlli pazzeschi, avevo l'escoradio, alla fine si era stufata, anche la postale interveniva, si piazzavano sotto casa e come mi sentivano parlare suonavano il campanello, capito? Non potevi dire che non eri tu, perché ti registravano, ti facevano. Allora l'escoradio era molto in voga, nel senso che era molto molto attiva, non come adesso. E quindi in quegli anni dovevo stare molto attento e pertanto al terzo controllo che mi hanno fatto, che mi si è veramente stretto il buco del culo, ho detto basta, qua bisogna trovare una soluzione. Mi sono messo a studiare e nel 92 sono diventato radioamatore. E basta, ma ti ripeto, senza fare grandi cose, senza avere niente di particolare, però avevo tante di quelle radio come queste che se te le trovavano senza licenza, senza patente, ti mettevano in galera. Le leggi erano un po' diverse, ma non sono neanche cambiate tanto adesso e sono sempre uguali, tutto qua. Quindi si fa a volte anche per avere la sicurezza nella cosa, capito? Non peraltro, perché rispetto tantissimo ai radioamatori, perché è un grande lavoro, hanno grandi capacità di fare tanto, lavorano tanto, sono a volte anche molto sacrificati in tante manifestazioni che si fanno, però quella passione rimane a chi veramente ha quella passione. Io non l'ho mai avuta, quindi sono rimasto sempre nel piccolo, tutto qua. Ho capito. Va bene, io ti lascio che mi stanno chiamando. Ci sentiamo dopo, ti voglio lasciare tra un quarto d'ora, riprenderò. Ci sentiamo tra un po', dai. Ciao Chihuahua, ci sentiamo. Per favore, a Mario, se si è all'ascolto, Chihuahua lo devo chiamare solo io, capito? Perché lui chiama me, io chiamo lui. Veramente lui è Pitbull, io Chihuahua, però ci chiamiamo tutti e due Chihuahua. Ciao amico mio, ci sentiamo più tardi. Chihuahua, a dopo. Ciao. Ciao. Sì, me l'ha detto Claudio, dai. B2 lo chiamiamo. Va bene, buona serata, ci sentiamo un'altra volta. Statemi bene, ciao ciao. Ciao Mario, ciao. È una confidenza che abbiamo con Eugenio, e quindi ci scambiamo questi nominativi particolari. Ciao, un abbraccio, a presto, ciao a tutti. E io pensavo che sei la tua sigla, figurati. Oh, via. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ma lui si chiama B2. Sì, sì, me l'ha detto, No, ma io pensavo, perché sentivo che lo chiamavano Chihuahua, Chihuahua, vabbè. Va bene, ma non voglio assolutamente entrare nel merito. Comunque, state bene, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, si scherza, ciao, ciao, ciao. Sì, e quindi? E quindi ti dico ciao, buonanotte e buonasera, ciao. Pensi che non ti avevo riconosciuto con la... Perché l'altro giorno Fabrizio, la tua portante è inconfondibile, ha detto no, stai attento, guarda che c'è anche quella di Giulio e di Roberto Quadrato che hanno lo stesso stacco. E anche di Eugenio. E anche di Eugenio si usa il lock, sì. Non capisco perché faccia questa cosa, il 60, vabbè, comunque. KK, stai andando a cenare? Sì, adesso scendo giù, ho un po' di abbassamento di voce, adesso scendo giù per la cena, ci sentiamo. Ciao Claudio, e ciao anche a Mario se mi stai ascoltando, un salutone, a domani eventualmente, dai, ok, ciao Claudio. Ciao, ma tu giù, ciao, io anch'io mi allontano, c'è la vocetta, poi faccio già tutto andato, no, ma così allontano, vabbè, già sono i miei vicini, già sanno, io sono sempre qua. Ci sentiamo, Giulio, buona cena, buon tutto alle prossimine, dai, ciao, ciao. Ciao, ciao, buona cena, Ciao. Ciao Giulio, buonasera da Mario, ciao. Ciao Mario, buona cena anche a te, buonanotte, ci sentiamo domani eventualmente. Ok, l'altro chi era? Franco, ciao Franco. Ciao Giulio, e ciao ancora Mario. Ok, chiudo, ciao a tutti, chiudo, riprendi pure. Ciao Giulio, ciao di nuovo Fra, mi sposto un attimino, dai, già ci ascoltiamo. Ciao! Eppure arrivi più forte, no, che a carbonati, non riesco a capire perché. Perché mi sono avuto una bustica d'aceto poco fa. No, ma c'hai, o è l'antenna, era sicuramente l'antenna, perché non mi sembra arrivato così neanche a Carbonazzi, nonostante fosse più alto come palazzo, però qua la zona che è alta, ne frego più di 150 metri, di là era 200, 270 dal livello del mare, qua siamo quasi a 400. Ecco, io vabbè, probabilmente è il punto, dai, che passo bene. No, vai bene, ottimo, sì, 9 è pieno, ma allora si è fatta, dice, è 8 meno un quarto, sorella, dai, me ne vado un po' a guardarmi un TG, vediamo se sono notizie buone, ok? Comunque questo è, l'Adonis l'ho conservato, ho preso un altro 60 fra, ordinato oggi, arriverà lunedì. arriverà lunedì. Ho preso un altro 60 e l'arone ce l'ho messo dentro l'armadio, là. Così sia nel 430 che nel 140 c'è l'MC60, intanto la modulazione mia è ghita, e tutta è andata a fa. Cazzo, no, ma diciamo, non era... era tutta diversa la modulazione, è ovvio che la gente diceva, però era chiara, cioè si capiva bene tutto quanto, solo che la Dorisi è tutto un altro, cioè tutto un altro timbro, una timbrica diversa dalle MC60. Ebbene, vuoi mettere la MC60 con la Dorisi, che questa spinge di più anche. E purtroppo è così. E è fatto bene a prenderne un altro di MC60. Io avevo già dato l'altro, solo uno te l'avrei dato, non avrei avuto problemi. Sì, me l'hai detto, ma ci mancherebbe altro, ma io ce l'avevo, ne avevo quattro, e poi alla fine erano lì fermi perché il radio ne avevo più, uno l'ho dato a Eugenio, l'altro l'avevo dato a Massimiliano, capito? E poi non mi ricordo, boh, se l'ho venduto con qualche altra radio, insomma, me ne sono tenuto uno solo, e invece poi me ne serviva un altro. Vabbè, oramai l'ho comprato, c'è la biglia luce, adesso la donna ce lo tengo di scorta, magari provo a cambiare le connessioni e lo uso col 757 con lo Iaesu, magari va meglio dell'MC50. Sì, vedi, magari la radio con quello lì va molto bene, perché lo Iaesu, cioè quello lì, la Lunisi cos'è? Della Icon, mi sembra, che o cos'è? Sì, uguale a quello della Icon, l'SM20, sì. Magari va bene anche a una radio Icon o un coso lo Iaesu, però sul telefono non va. Ne ha già bugato, me lo sono comprato, mi hanno mandato la comunicazione proprio nel primo pomeriggio che domani mattina lo spediscono, quindi lunedì è qua, così lo attacco e ho tutte e due le radio con l'MC60, lo Iaesu, lo faccio andare con la Lunis. Va bene, Brancoli, dai, ti saluto, se coincide a più tardi, altrimenti ritieniti salutato. Ciao! Cappa, ciao, Clau. Ci sentiamo. Andava. Casare, ebbè.